Elton John ha riguadagnato la scena, tutti i musicisti sono pronti, sembra che ci siamo proprio per Electric Masada in diretta dall'Auditorium Parco della Musica, concerto conclusivo di John Zorn Complete Masada.